Allora, intanto buona serata a tutti e un grazie sentito a Roberto e alla Calusca che ci ospitano e al nostro Deus Ex Machina che ci ha supportato fino a questo momento. Speriamo che stia con noi tutta la serata. E benvenuti quelli che sono venuti qui per fare festa, perché questa iniziativa si iscrive fra le varie iniziative volte a promuovere, a far conoscere questa antologia nell'oro della quercia, edito da Punto a Capo, però è anche l'occasione per vedersi finalmente in presenza, visto che sono tanti mesi che ci vediamo su Zoom o così, in maniera molto molto virtuale. E quindi due parole, solo due, per dire che questa antologia, che sicuramente ha voluto valorizzare singoli percorsi autoriali, però è nata anche nello spirito di ricreare una koinè ideale, valoriale, in cui riconoscersi, cui appartenere. E questo è il motivo per cui ancora è più bello stare qui e fare festa insieme. Prego gentilmente i cellulari di silenziarli, metterli in modalità aereo, e a questo punto io lascerei la scena a Aima, poeta, brava performer, di questo che è un piccolo spettacolo. Eseguirò due brani dal prossimo lavoro che verrà pubblicato tra un paio di mesi. Sì, è normale perché questo va azionato a parte. Prova? Sì. Eseguirò due brani inediti che verranno pubblicati nel prossimo lavoro, che sarà un CD e un libro pubblicato da Agora & Co, dove ormai siamo tutti un po' fratelli qua, nella casa editrice. Pertanto sono inediti, la musica è prodotta comunque dai membri di Caverna delle Rose. Ho portato dei CD del precedente lavoro che è sugli Inni Orfici. Quindi immagino che molti di voi possano provare interesse per questo tipo di argomento. E niente, direi di lasciare la parola alla musica. With the blast of the sun and the scent of the underground. Mi sembra un'era fa, in effetti era l'era avanti Covid 2019, Aima insieme a Tommaso Kemeny, Francesco Macciò, c'era anche Sebastiano Romano, non so se dimentico qualcuno, siamo sbarcati sul naviglio grande, i famosi Argonauti, e quindi un pezzetto di quegli Argonauti si sono adesso qui riuniti. E al capitano della nave, Tommaso Kemeny, io vorrei dare la parola. Pronto, pronto. No, va bene anche così. Sì. Sì. Sono contento di potervi salutare, di essere ancora tutti insieme per una nuova, forse, inizio di nuove avventure. Un verso magico. Os ipo foi pop nok fopi paiovon, meros ipo foi popi pipo fopi popi pa. Ecco, vi chiedete chi è questo signore che si è seduto su una nuvola. Chi sono io? Non lo so. Cosa faccio? Io costruisco la Torre di Babele, torre scossa mentre il sole ci fascia, e vogliamo oltre la torre. Tutto ciò che è abissale urla in me e vi chiama, vi sveglia nel cuore della notte. Si capovolge il mondo mentre la perdita infinita avanza. I momenti difficili danno sapore alla vita. Che baci nascondono le rime? Avrà cura di te fino alla fine del mondo. All'improvviso superi il Golgota per essere ancora una volta crocifisso. Questo è la Roma. Baccanale di sonora malia, la tua voce arruffa ogni sillaba e le parole scarmiglia per timbri e accenti fluttuanti nella porpora. Alla tua voce l'udito germina labirinti di grazia al succedersi di accordi sommersi da flutti di lussuria, preludio alla suprema delizia. Ora ridente, ora posseduta e torbida, la tua voce ghermisce la mia anima ad abbandonarsi rapida al tenero mormore che mai sazia. sotto la pioggia. Sì, sotto la pioggia la primavera canta come un notturno mai composto da Frédéric Chopin e ci ubriaca del proprio canto canto contrappuntato dal vento. Ma se il vento tace e la pioggia sull'asfalto, sull'albero, sui tetti tamburella, il suo triste notturno canto scora e c'è chi non si trattiene dal pianto. Scherzo in do diesis. Dio sia lodato. È proprio Tommaso quello. Dimostra solo 80 anni. È proprio Tommaso Kemeny. Ha il volto classico, la fronte del pensatore. Non credete a una parola che dice quell'uomo è Leopoldo Basile, il famosissimo piromane. Celebro la poesia che alle altre non somiglia, scorre nelle vene azzurre dell'aria per tingere di desiderio i cieli e di gemme e di fiori in corona la mai sazia d'amore. Lei sola sfida il terrore senile dell'avventura e accende il tramonto a sospendere la lacrima stellata della notte sovrana. Celebro lei, la poesia che nel sangue germoglia e ogni cosa decrepita muta nella rosa di luce che il mondo risveglia. C'è ancora? Grazie. Non c'è più. Basta. Mi pare di aver finito. Tommaso Kemeny è il Novecento, lo ha attraversato tutto, dalle prime avanguardie fino a scavallarlo questo Novecento, e proprio nell'antologia, nell'Oro della Quercia, spero di avere dato, valorizzato insomma questo suo libro per il Lobo d'Oro, che effettivamente narra la sua vicenda biografica, ma che è anche vicenda del Novecento. E ora chiamerei Massimo Bondioli, che finalmente ho conosciuto anche di persona e non solo su Zoom. Lui viene da Piadena, come Aima viene dai confini con la Svizzera, quindi qualcosa di buono questo Zoom l'avrà prodotto. Bene, prego. Grazie. Un po' imbarazzante dopo un monumento, io che vengo dalla campagna e approdo alla poesia in età molto avanzata. Vi leggo alcune brevi poesie, sono brevi le mie di solito. Le prime sono tratte da Sotto il segno del Tiglio, prima raccolta uscita nel 2010, Gatto Grigio Editore. Alcune di queste, un bel gruppo, furono pubblicate sul Monte Analogo, diretto da Paolo Rabissi, nel maggio 2010. E lo dico perché fu per me importante quella cosa, se no probabilmente non avrei mai pubblicato nulla. Allora, ho cercato di trovare in tre delle mie pubblicazioni un filo narrativo. Si parla di paesaggi, trasformazioni, contaminazioni. L'estate giungeva improvvisa e pareva per sempre, tra i vecchi muri abitati dal tempo e ardite pareti di cemento e forati, fra mattoni rossi, serrati come labbra esauste e ali grigie di falene stordite. Sul prato nuove ombre, calde, precarie, di gru e di lamiere. Mio padre deve aver amato, come tanti, la febbre degli anni 50 e 60, le città avvolte di nebbia, di luci, di pubblicità. La domenica mi portava con la Vespa, oltre i laghi fioriti di loto, ad ammirare cisterne, grovigli di tubi, aromatici rigagnoli di fumi. Del tempo della miseria restavano tombe di bambini, sgravati anche del nome, nella terra deserta a destra dell'ingresso. Il lavorio delle pale aveva conferito a quei piccoli tumuli, sormontati a distanze uguali da minuti cippi a punta color ruggine, una vaga figura di barchetta. Grazie. Mio nonno, Torre d'Oglio, 1° maggio anni 70. Imponente come un monumento, dentro la piccola foto in bianco e nero che vira al giallo. Per piedistallo una sbilenca gabbia per conigli, relitto alla deriva nel mare avaro della Golena. Solo, di fronte al vecchio muro, lo sguardo serio, nelle mani una voglia di fumo. Cortile, ossi di pesca, resti seppelliti di gattini maciullati, escrementi colorati, chiodi arrugginiti, trucioli, palline, viti. Dalla Chimica del Mare, 2014, punta capo. Vi leggo solo questa poesia, dedicata a Umberto Bellintani, poeta della pianura. È in giornate ripulite dal vento, quando la pianura smette l'abito grigio e lo sguardo incontra i contorni di questo catino di terra smossa e il rosso a tramonto scommette su una notte di stelle, è allora che senti l'occhio di luna che sale evocare nel cielo del pescatore di anguille la vecchia balena, l'eterea compagna dai mille e mille denti d'oro. E infine alcune poesie tratte dalla raccolta uscita l'anno scorso, Sul confine, sempre punta capo. Il paesaggio cambia completamente. Milano, via Corelli. Un rombo continuo, martellante, disegna l'arteria tangenziale in tempi e pulsanti di domande. Sogni e pensieri stanno come sospesi, calamitati a un cielo troppo simile al mare, dai voli vacui di Linate. Basterebbe loro un nome, come l'hanno i cani per i loro padroni, e dalla riva del nulla si scorgerebbe una città ancora viva. 25 luglio 2011, 3 febbraio 2021. Meticcia le arie, nelle sere più estive, un rimestio di venti, e nell'aria di casa, strappati da casa, odori lontani, aromi speziati, spire di incensi. Scampagnata. Quando vortica il vento, poi sotto gli argini muore, nel fango bruciato, fra lattine dei discount, carbonella, diavoline, carni incontaminate, ara sacrificale al dio dell'estate, Nuovi ambulanti di ricordi fermano i loro occhi stanchi nell'ombra povera di pioppi, bianchi e regolari, che non saranno mai bosco. Le ultime due. 10. Bar. Rigira l'uovo tra le mani. Nel giorno di Pasquetta, la ragazza cinese, fra lo scialbo bancone a specchi anni 70 e sguardi lontani di vecchi che il tempo tagliano a calici di vino. E per concludere il saluto. Resta sospesa mezz'aria la mano, mentre porta la sua fino al cuore, in un gesto intriso d'armonia, e ti coglie la vaga sensazione di uno iato, di un difetto, infilato in questa asimmetria. Grazie. Chiamo Luigi Cannillo e che ho potuto seguire per tanti anni nella sua lunga traiettoria, che è approdata infine a un'autoantologia. Eccoci qua. Voilà. Ma io leggerò dall'antologia Nell'oro della quercia, ringraziando Gabriella per aver scritto su quelli che erano inediti e lo sono ancora, ne leggerò due. Il titolo di quella che potrebbe essere questa nuova raccolta è Dal Lazzaretto, e cioè è legato al quartiere dove sono nato e vissuto, Porta Venezia oggi. Siete stati tutti qui, vi vedo percorrere incessanti pochi metri, giocando a carte, curando piaghe. Ora si è rovesciato un continente inaspettato, lo sgomento incrociato di nuovi occhi, di messaggi muti, un alfabeto incomprensibile, scritto dai passi e dalle soste, davanti a serrande abbassate. Come storia accennata in un poema, mio padre entra da reduce nel bar, che ora non esiste più, ne esce da immigrato e subito vecchio poggia per sempre la bicicletta rotta all'angolo. Passeremo tutti sul tappeto, ci resteremo come animali o fiori, appena scoloriti, sfilando fitti in corteo, incolonnati sull'eterno confine del quartiere, per il nostro turno. Grazie. L'autorità si intende dal gesto, o anche da una sola sillaba. Ma non accetto la voce del padre. Nessuno stemma il vuoto tra le sedie. La legge della parola scorreva, pronunciata a distanza, ancora sigillata in un silenzio. Solo nella Babele delle stelle si poteva presumere un ordine, l'aggancio a un grado maggiore. Non era il codice del padre la legge, il padrone destinato, ma riempire i quaderni dal confine, essere forestiero al mondo e nella ressa spingere. Grazie. Questo è stretching, fa bene. Bene, chi sta arrivando? Adam Vaccaro con Barbara Gabotto e Giacomo Guidetti per una performance, quindi è una cosa, un salto carpiato, facciamo lettura e performance. Beh, io direi che un applauso a Gabriella glielo dobbiamo, perché io che ho seguito passo passo il lavoro enorme che ha abbracciato un triennio più o meno, insomma, i nostri incontri lì nel salotto, prima in presenza, poi solo con Zoom, e lei che ha lavorato, ma prima presentandoci e scavando nei nostri testi e poi facendo il lavoro di cucitura, io che di qualche libro collettivo, collettaneo mi sono occupato, so bene il grande lavoro che ha comportato, quindi grazie Gabriella, un applauso. E ringrazio anche oltre a voi, insomma, Barbara Gabotto e Giacomo Guidetti che mi vestiranno di voce e musica uno dei tre testi che penso di leggere, insomma. Leggo il primo per, come avvio, e siccome siamo, mi perdonerà Gabriella se non leggo testi della sua antologia, perché è nata da prima che questo libro uscisse, Google in nome di Dio, che molti di voi conoscono. E da questo libro leggo una poesia che, viste gli orizzonti piuttosto scuri in cui stiamo andando, implicitamente ci augura un altro orizzonte. È dedicata a una persona che nel momento della nascita mi ha suggerito queste parole. Chiara luce che acceca, questo mattino e ne fa una briciola di immenso. Chiara voce che annuncia l'attimo che segue e annega, brillando nel precedente. Chiara pace di gioia che vince sul pianto e ne fa lince che insegue persa in un attimo di infinito. Grazie. E passo voce, musica e spazio a Barbara e Giacomo, che leggeranno e accompagneranno con un po' di musica un testo a me particolarmente caro, che loro hanno già letto ed è stato pubblicato in rete. A te. Contrariamente al nostro solito, non cantiamo la poesia, ma la recitiamo su una base musicale. Lettera di Vilma. Ciao cari miei, ah che viaggio è stato per me, pieno di ardori tra i tanti freni. È questo solo che ora ricordo mentre corro libera in un'immensità che non immaginavo nemmeno nei miei più furenti andirivieni in bicicletta, sonante come una bagnarola, ridacchiava mamma. Nerina, lumandomi accaldata nel suo forno, davanti alla bresa che avvampava il pane e un po' anche me, dicendo «Va là, che rivi come no caffannata all'alba!» Ah, quell'alba, quell'alba rinata come il Natale di primavera degli anni 40, dopo la cacciata di topi e tedeschi, a caccia di noi, che cantando «Bella ciao» gridavamo «Viva la patria!» e nascondevamo armi e salami e formaggi in cunicoli che solo noi sapevamo, resistenti, con quel vento dentro che ci ha guidato fino a questa palude senza guida e senza idee, evirata di vita e colma solo di mille invisibili virus. A voi spetta il tempo di inventare un vento capace di liberare l'aria e i vostri cuori spersi. È difficile, come per noi allora, in quel tempo così lontano, eppure per me ancora così vivo, che mi dà ancora il fiato di dirvi: forza, la vita è ancora vostra e sta sola nelle vostre mani. Solo questo è il regalo che mi aspetto, bei burdeli. Mentre volo libera in questa terra immensa e nuova, come in quell'alba rossa di Romagna di tanti anni fa. Grazie, grazie Barbara, sempre splendidi esecutori. E chiudo con questa breve poesia dedicata a un'immagine che conservo nelle mie memorie. Il mio bianco re. E c'era un re ignoto di parola, che ora riascolto a questa mia età pari alla sua, mentre dalla sua voce piovevano gocce di suoni calamitanti che cerco di imitare in versi narranti su questa carta bianca, come la sua immagine che mi incantava seduto sulle sue ginocchia, trono ormai mito del mio passato presente, come un re ignoto di parola e sapienza, mia radice viva che resiste e batte ancora qui intatta. Grazie. Bianco Re, siamo riusciti però ad acciuffarlo anche nell'antologia e collegandolo a essere altro grande mito di tua bonefrana memoria. Allora, va bene così. È bello riuscire a tessere dei fili tra gli autori e riuscire a trovare quell'anima sottile, invisibile. Chissà se troviamo un sottile filo anche con Paolo Rabissi, c'è il sottile filo che c'era di Monte Analogo con Massimo Bondioli. Con Lucy Rabissi anche ha sfondato anche l'orizzonte della storia. Sono un po' in un equilibrio instabile, ma ce la farò. Volevo ringraziare Gabriella e tutti voi che siete qui, ma i 4 minuti che mi spettavano ho convenuto con Franco che, siccome lui ne userà 3, glielo rubo io l'altro, ma non sarò lungo, Ho deciso di leggervi, io ne farò 6. Ho deciso di leggervi 4 metaloghi. I metaloghi sono una forma di dialogo in cui si discute qualche cosa, insomma. Metalogo numero 1. Ormai ci sono. La lunga siepe di alloro è quasi interamente ripulita. Intrecci e viluppi di rovi strappati via insieme al marciume di foglie vizze. Mi manca un ultimo scompiglio di radici. Lì 5 o 6 grilli si sono spaventati. In 2 salti sono scomparsi nella siepe. Solo uno è rimasto su un rametto. Mi fa: era ora che ti decidessi, eh? Qui dentro è tutto uno schifo. Ho abbozzato, va bene, ho capito, ma adesso qual è la morale? Quale morale? La morale non è roba per me. Noi non sappiamo cos'è. Siete voi umani a farne dalla mattina alla sera. Sembra non abbiate niente di meglio da fare. Sì, però adesso sei tu che stai facendo la morale. E io cosa gli dico ai nipotini? Che devono guardarsi dai moralisti che abbondano tra noi, ma a quanto pare anche tra voi? Non mi ha risposto. Con un salto è scomparso dentro la siepe. Metalogo numero 2. La prima pioggia di settembre, col cielo scuro, oggi cade silenziosa. La siepe di alloro luccica, dalla grondaia cade un flusso continuo sul flusso della magnolia e sulle rade foglie, insolita è l'aria fredda. Non mi resta molto da fare. Anche in cima alla siepe, a nord, là dove fronteggia l'intrusione delle canne, ho già svelto le ultime radici di erbe. Bella carneficina, eh? Torna a dirmi il grillo ricomparso tra le foglie. Lo so, anche quelle radici, quelle erbe, sono vite che elimino, ma non mi sento male. È una contraddizione che non so affrontare, gli dico. A tratti, in effetti, mi sembra una questione oziosa, ma prima o dopo mi tornano in mente i nipotini con la loro rigorosa propensione animalista, ecologica. Manca cosa alla mia valutazione? Forse siamo tutti bloccati in una dimensione materiale sbagliata. Eppure questa trappola non posso ritenerla un destino. Mi suonerebbe come la condanna per il biblico peccato. Ho preso il rastrello, ho cominciato ad ammucchiare le foglie secche. Molte erano cadute da sole. Fa freddo, ma piove col garbo da giardino. Non riesco a calmare le mani. Metalogo numero 3. Insomma, fossero queste le contraddizioni da risolvere, mi dico. Ah, io però dubbi non ne ho, aggiunge lui. È proprio una questione oziosa. La guerra tra le specie è naturale, sai meglio di me che ciascuno di noi è preda e predatore. Qui, dentro la siepe, la guerra tra insetti e affini è continua, totale. Per sopravvivere ci mangiamo anche tra noi. Sull'altro lato della siepe ieri c'era una cavalletta, ti assomiglia. Aiuto, alla larga, parenti serpenti. Quelle distruggono tutto dove passano e di me fanno un boccone. La vedi quell'edera che si è così platealmente intrecciata al fusto del pruno? Lo stava soffocando lentamente. Infatti quest'anno non ha dato frutti. Meglio, così i corvi girano al largo, altrimenti aggrediscono anche noi. Beh, io l'ho recisa alla base. Quello che faceva non mi sembrava né bello né giusto. Ah, prima la morale, adesso il bello, il giusto. Né la moralità, né la bellezza, né la giustizia mi riguardano. Sono problemi coi quali voi umani vi complicate la vita. Io penso solo a mangiare quanto è più piccolo di me e a guardarmi da quanto è più grosso come la cavalletta. Questa è la nostra guerra. Ma a guardare bene, mi sembra che assomigli molto alle vostre. Sì, ma voi siete condannati a non avere tregua. Noi abbiamo imparato a fare pause. Ma le pause le faccio anch'io. A me le vostre sembrano sempre più brevi. Abbiate pazienza, è l'ultimo metalogo. Il sole ha già dissolto la guazza nel prato. La luce sembra mettere in tensione la siepe di alloro, il pruno, le canne a nord, le rose. La giornata chiama altrove. Sto ormai tirando per le lunghe le mie rifiniture. Secondo questo tuo ragionare, dunque, noi tutti animali siamo destinati alla guerra per l'eternità, almeno finché qualcosa non ci incenerisca tutti. Chissà, dice lui, ora ti lascio. Devo procurarmi cibo e un po' di tranquillità per suonare le mie zampe e attirare le grille. La vita continua. Mi fermo anch'io. Prima che sia necessaria una nuova pulitura della siepe, ci vorranno mesi. Ho strappato un ultimo ramo di rovo spinoso e poi ho riposto in un angolo le cesoie, il rastrello e i guanti. Lui ha sostato un attimo rivolto verso di me, poi con l'ultimo salto è scomparso nel folto della siepe. Non aveva un'aria molto felice, nemmeno io. Grazie. Mi daresti una mano? Perché se no... Così. Bene. Allora, per questa antologia un grazie davvero sentito va all'editore, a Mauro Ferrari, perché... Voi forse non lo sapete, ma l'editore spesso e volentieri mette sotto sequestro l'autore. E io cerco sempre invece di dissequestrare l'autore dall'editore. E allora io questa sera qui Mauro Ferrari lo voglio come autore. Bene. Grazie. Io leggo dall'antologia anche perché mi riconosco nei testi che sono stati scelti. Non sono recentissimi, ne leggo due soltanto. Questo si intitola L'angelo difficile, utopie. Non voltarti, non parlare, non toccare le mie penne nere e secche per il vento attraversato. Io sono l'angelo impossibile che non esiste e parla nella luce piena, l'auspicio. Tu sei l'uomo corroso dal dubbio, l'intrappolato nei rovi e immorchiato, il senza volo. Ti conosco da sempre, sei l'utile idiota appostato alle porte del fuoco. Il ribelle che alzerà il pugnale, piangendo al pensiero e al ricordo, per cui la storia è una cicatrice arrossata. La vita, il dito che vi corre sopra, tu sei due gambe piantate nel fango. Hai visto la debolezza umana, la forza della paura e delle frane. Misuri il lento, adesso, scivolare del ghiacciaio. A notte gli occhi chiusi sul silenzio, la montagna che si fa morena, assediando il fondovalle. Ti parlo nella luce e dico, non ti voltare, che il tempo deve essere quello del ghiacciaio che non sente di cadere, ma riempie una coppa di bene, di bello, di giusto. La seconda si collega anche tematicamente, è il finale di un'altra poesia, ma sta in piedi da sola. A meno che il senso non sia, e non è poco, forse è tutto, il contemplare la bellezza, crearla se possiamo, proteggere la sua fragilità, amare il vero e il giusto, gli altri suoi nomi, se teniamo l'asse in equilibrio un attimo mentre tutto vacilla. In questo buio ho contemplato e porto in me il tuo corpo che entrava vivo nell'acqua sorridente sotto sguardi che non vedevano, perché il segreto è ben riposto in qualche piega fra gli occhi che accolgono la vista, la mente che discerne e il cuore che soppesa ammira. E mai, saprai se la battaglia è vinta o persa, se l'attimo di luce è un accendersi o uno spegnersi. Grazie. Allora, io vorrei che venisse qui una donna che recita già da tutta la vita e si chiama Mariella Parravicini. Quindi, prego, prego. Bene, allora, di Mariella nell'antologia noi abbiamo, diciamo così, antologizzato quello che è, nel frattempo è diventato un libro, su quella che è stata la sua esperienza come insegnante, perché lei si è mossa tra il teatro, la recitazione e l'insegnamento e ha trasmesso tantissimo entusiasmo proprio ai suoi allievi. Quindi Mariella, io ti lascio questo piccolissimo palcoscenico. Sì, io non so se salire o stare giù, come vuoi tu. Forse è meglio che stia giù perché ci sono dei pericoli per me. Ci vedo poco. Dunque, sentite, io non so, Gabriella dice 4 minuti, adesso passerà uno ed ora che spieghi. Volevo leggere una poesia di Tessa, che si chiama L'Eldì di Mortaleger. Io sono una cultrice del dialetto milanese, anzi adesso, grazie alla nipote la regista del Piccolo Teatro, la nipote di Testori, io e un'altra attrice stiamo preparando per il teatro Franco Parenti, per i 50 anni dell'anniversario non so se chiamarla performance, insomma, uno spettacolino in dialetto, in quanto noi due, io e l'altra attrice, siamo di matrice autentica milanese, e con questo io non voglio assolutamente difendere la mia origine, ma sono capitata così. E anzi vi dirò che, insomma, forse è un episodio che magari avrò occasione di un'altra volta. A volte quando sono sbarcata a Milano dalla campagna, dove io ho imparato il dialetto piemontese, non so se mi avessero insegnato l'italiano. E sono andata in prima elementare, ma non lo so, nessuno ha mai parlato di questa cosa. Bene, passiamo ad altro. Allora, volevo dirvi che volevo leggere questa poesia in dialetto, ma è una poesia molto bella, affascinantissima, però c'è del milanese arcaico, per cui ci sono delle parole che anch'io non conoscevo, ho dovuto andare a vedere. Allora ho preferito voltarmi su Gadda, su un pezzo della Dagisa che io ho fatto più volte in giro, e anche con l'approvazione sacra di Dante Isella. Allora, guardate che è preso da Disegni Milanesi, il testo di Dante Isella, e io poi c'è stato fatto un taglio, insomma. Sì, il microfono, adesso quando trovo la pagina. Bene. Bisogna piazzare la luce e il suono. Vediamo, speriamo, perché non è facile, eh? Oh, forse così. Il povero Carlo, che era il marito di Adalgisa, parla di lei, viveva d'amore, però con la testa in decunt, fino in let, protestava sommessamente l'amato. In quella stagione d'amore la sua voce era ancora voce, per quanto già singolarmente velata. Che la vus, che la vus. Le aveva urlato una sera di residui vocalizzi il povero Carlo, e una sera ardente di fine agosto che egli si era messo a rigovernare certi conti di Corso Vercelli al tavolino d'anticamera. I mutande, con il carimà che manca dente, un cicin d'encioster, lamentò poi subito cadendo in un accoramento piagnoso. Reiterato già focosamente alla bersagliera, nonostante il fuoco del giorno, l'amore gli aveva regalato una testa, un cervello dolce e vuoto. Quella sera lei era apparsa in vestaglia, sbattendo la porta, decisa, senza dire parola, senza guardarlo, aveva preso di sul tavolo il calamaio vuoto con sicurezza lombarda e da buona massaia lombarda glielo aveva colmato seduta stante in cucina d'un certo inchoster di sua fabbrica. Sapete che è difficile trovare il posto giusto. Non so quelli che verranno dopo se si troveranno come me o come no. Ma quest'chile è l'inchoster del rubinet. Aveva osato protestare il povero Carlo col calamaio in mano, guardandoci dentro mortificatissimo. Dimmi un gossi di story, lo aveva rimbeccato lei, terribile, con una improvvisa ruga verticale sulla fronte, impallidendo. E peu del rest, se anche il fides che giotan de quel funt che te peu de tirar su una brenta del toinchoster. Ruga salam, te ste lì con la faccia per aria come un bambam. Stava per andarsene, ma si ripentì. E poten benamente che chi se min camia e minga in catua. E in camia che l'inchoster che mi fa comodo a me, caro il mio bel ragionat. Dite ste vere fai cun della vercellina, che tante tante i tocunt. Alzò le spalle. Per quel che mi rende nami, i tocunt. Poi, dal sarcasmo il furore. E con un'altra volta, tirami in gament de mettersi in let ai quattrur de sira de cul sofu che fa, perché te fu cura sciavatà giù per le scale. Vuol dire che lo fa correre a ciabattate giù per le scale. Si fermò di botto, sardonica, girata di tre quarti e davanti l'uscio, le mani sui fianchi. Bei kunt! Per quel che mi rende nami, mi fermo. No, altre situazioni, però ringrazio molto la cara amica che non mi vede mai con Zoom perché non riesco a entrarci o stare lì così, non so. Saluto tutti i cari amici, compresa la cara Alma che ho ritrovato qui e che ha lavorato con me al teatro con i ragazzi. Sì, la ricordo anch'io bene. Ah, ecco, io devo dire che una parte di ciò che viene scritto nell'antologia è stato preso da un libro che si chiama Teatro per la vita, i 30 anni di laboratorio teatrali, con sul mio nome, di Mariella Pravicini, e sarà presentato al 18 ottobre al Liceo Classico Manzoni, dove ho insegnato latino e greco e ho inserito il teatro con armati quelli che lo facevano. Grazie. Sono stata dentro i 4 minuti. Allora, la luce intanto adesso da qui forse ci aiuterà. Bene, grazie. Non ci abbandoni. Non ci abbandonare. Bene. Allora, piano piano ci stiamo avvicinando alla conclusione del primo tempo. Ancora abbiamo un paio di letture e una performance che vi stupirà. Quindi Cesare Vergati, e che si avvicina con noi nella sua scrittura che è tra poesia e prosa, un poema, è una scrittura fluttuante in cui bisogna calarsi. Grazie. Cerco di imitare. Sì, forse. No. Comunque si sente bene. Rosso vinato. Presso intangibile materia, un'affermazione vale il suo contrario. In questo tempo, Cedro, vorrà piuttosto incontri quelli d'allora. Infatti il gaudente a fianco, più presto accanto, in ordine di passeggiata e conversazione, il quadro d'insieme, dipinto in dettagli, il quadro d'insieme nuovamente. Insieme a piedi, per di più, per entro i campi, le siepi, attraverso lunghe vie larghe e profonde strade, da parte all'altra, in mezzo, innumeri piante, alberi innumeri, tra innumeri animali, se inverno, primavera, estate, autunno, oltre, così non prenderà guerra, piuttosto ascolto, le innumeri gocce, stille innumeri. Quando quella persona l'intento, godere agi e piacere, a termine il sentiero, cammin facendo, certamente, per bivio andrà, per lato altro cedro, andrà piuttosto incontri, quelli allora, lo scrittore poeta, i due amici, una madre, l'uomo a gratuito, l'amante a natura, e altri tanti innumeri, il mondo in mezzo, a fianco viaggiatori a piedi, a termine sentiero, cammin facendo certamente, per bivio andrà, per lato, quelli d'allora, per altro, ognuno a svolgere proprio rotolo il papiro, questo destino, quello secondo ognuno. Quando a fianco piuttosto, a mancino canto il mistero, i suoi insvelati segreti, insvelabili, spontaneo va, libero in animo, così Cedro, ad esempio, spontaneo andrà, cammin facendo, scapolo a via, non più mancipio di chi che sia. D'altronde, più pretende lo schiavo divenuto padrone, tanto più di sé presume. Infatti il pelago non chiede d'esondare, già saprà le innumeri gocce, i numeri astri, granelli innumeri, Cedro quindi sua sponte, gocce a suo agio granello, astro a suo agio. Cedro in realtà a giorno, a notte, artefice senso a sé, in vero autore sua fortuna, se sfortuna artista di secondo piano. Al ricordo momentaneo evanescente, e riforme vapore, il volo va, il Pileo, il Dioscuro, il passaggio, lo schiavo a liberto, per cui a presente, invece libero cittadino, al libero pensiero, centro sua sponte, quando questo viaggio fu turbato, incidente di percorso, spiacevole incontro. D'altronde il furbo anela d'era a dire astuto di sé, in pubblica piazza, i curiosi gremita. L'esempio d'ignorante che gremisce le citazioni, i suoi detti. Il viandante, nato disgraziato, insolito piacere, il pungolo incitare, la tardona in fossa comune, già considerò brutta, malandata, in succinto ambito, se spontanea ostenta, levigate gambe avvizzite, chissà, ardente desiderio, cubida ancora, quanti godimenti, ognuno svolge a proprio piacimento di vita, il proprio ad persona. Cedro davvero a termine 33 passi, qui mi fermo. Vi sarete resi conto che in questa antologia si sono un po' attraversati diversi generi, poesia, narrativa, teatro, e alcuni del resto autori di questa antologia li frequentano più di un genere. Uno di questi è Claudio Zanini, che abbiamo antologizzato come narrativa, ma è anche poeta. Buonasera a tutti. Allora, un attimo, io leggerò una poesia da Ansiose Geometrie, il mio libretto che finalmente è stato edito. Io me l'ero stampato da solo, per cui molti conoscono già alcune poesie. Finalmente è uscito in un'edizione ufficiale. Ecco, una breve poesia allora. Peccato che non riesca a leggere. Dunque, non esaurisce. No, non ci vedo, guarda, mi spiace. Non esaurisce l'aurea misura del regolo, nessun sapere del cartografo valente, poiché l'ombra sfugge ad ogni tringolazione e la luce è dominio irrequieto dei volatili. Arduo comporre limpida traccia nel giardino, si interrompono i sentieri in gore d'ombra o in tenue chiarità di lontananze vaghe. Tra frangenti arboree e zolle umide sono gli incroci aspri nodi d'afflizione. Affidiamoci allora al minimo tracciato della cartografia audace delle allodole, alla misura irridente del loro canto, sebbene a noi quasi nulla resti, solo il presagio incerto d'una quiete. Ecco, io basta perché me ne devo anche andare. Comunque ringrazio tutti e mi scuso. Siamo arrivati qui alla stupefacente conclusione. Allora, io ho un amico, un caro amico, che ha fatto parte anche lui, fa parte anche lui dei nostri incontri tra autori, che io ho incontrato per caso nella mia vita, ha anche molto influenzato la mia poesia. Parlo di Nicola Labanca, il quale è un fisico, viene dalla fisica, ed studia anche teoria dei sistemi complessi, critica anche la teoria dei sistemi complessi, quindi abbiamo fatto sempre grandi, grandi conversazioni. Ho imparato più io da lui, devo dire la verità, ma questa sera noi lo scopriremo in un'altra veste, perché lui è anche un musico. Quale microfono? Non c'è bisogno. Thank you. Allora, in Argentina il tango è sotto i beni culturali, è sotto la protezione dei beni culturali, pur essendo ovviamente una musica che ha radici popolari. Abbiamo scelto questa musica proprio perché era un fantastico abbrivio per darci all'aperitivo. E quindi ci rivediamo fra un po'. Mi congratulo con voi per la vostra tenuta di strada e ricominciamo la prima videoproiezione. Allora, io chiedo di nuovo a Aima di salire qui e di riaprire il secondo tempo. Inno allo spirito del fuoco. Spiritus ignis motum animi eternus clamor. Letitia se dolores crepitantium in me scure. quello che vedete è un fiume di fiori che per me entra, per altri, per l'autrice esce. E sto parlando di un quadro di Rita Morandi, che prego di venire per leggere, perché lei frequenta sia la poesia che le arti visive con uno stile tutto suo, visionario. Grazie. Allora, leggerò delle poesie tratte dal mio ultimo libro, La caduta degli angeli, La chute des anges, pubblicato a Parigi dall'Harmattan. L'aria silente, solo carezze di nubi e poi passaggi stretti fino al completo buio, calmo e stellato di un altro suono. Mare grande, oceano, pezzetti di fiume sull'arena, steccate dal sole del giorno. Era umide di mare, sarsedine notturna, d'aria fredda e strana. Fu come un risveglio da un sogno sonno profondo. Luce della luna accecante in questa notte eterna. Nessun suono più grande del silenzioso blu del mare fermo. L'angelo è caduto. Rugge la terra in fuoco, lei invoca il vento che arruffa le piume del suo petto. Presto la terra aprirà il suo ventre, già fremiti al cadere del sole. La terra s'apre e giù nel sotterraneo afferra, fulminea il buio di questi neri inferni. Questa città crudele, lucida e nera, di topi nei cortili e vite sotterranee, e sopra insieme vanno uccelli, i migratori, in cieli di rare meraviglie, dove morte e bellezza camminano insieme. Città senza lune, già precipitate, approfondate, già disciolte nella terra, dove Selam nei cieli perduto cadde nella senna. Questa città immonda e crudele che ti trascina in alto per farti poi sprofondare. Sento Paul, la sua anima, sotto il ponte Mirabeau. Anch'io caddi a Parigi, città dei cieli e inferni. Ma nulla io ho visto né sentito, e questa terra che geme tremando, buio, esce dallo scheletro del palazzo, dalle finestre senza più vetro, come fluido oscuro che avvolge i fantasmi di corpi vuoti. La città vuota, dietro la porta, memoria, ma nulla io ho visto né sentito. Sentimmo allora la domenica di Pasqua campane in lontananza, piano, insistenti, avvicinarsi, poi sempre piano allontanarsi, e le cornacchie sparite con i corvi a rovistare per qualche altro morto da resuscitare. Vedemmo allora il piano della valle in strepitosa guerra di becchi e di becchini, d'artiglie, sangue nero sulle piume, pioggia di colombe come neve candida che scende e poi fragore e nulla su nei cieli. Cadevano angeli trafitti come pezzetti di paradiso nella valle greve che si riempie di rubini, zaffiri e diamanti. Toccammo allora con mani inutili questa resurrezione. Ancora una poesia tratta da chiudere il libro, sempre del mio ultimo libro, della Chute des Anges, la caduta degli angeli. Vedevo rotolare tra le felci e le ortiche la sua testa e il suo viso, inondato di liquido sorriso. Mi guardava rotolava nelle antiche fessure del tronco e lì giaceva poi nelle rive di lacrime e languore, nei chiari del bosco, in quell'ore dove della terra il solco è deciso, dove l'ombra non confonde la luce, si distende come tomba tra le ortiche e le felci, tra il vento che soffia. Nel silenzio un lamento, la sua testa allora io presi, dalla sabbia del riso, del rivo, la distesi sopra le felci, la palpebra tremava, un rossore dal viso sgorgava. Perché? Io dissi, ma non rispose, abbassò gli occhi, li chiuse come chi muore. E a questo punto chiamo Giuseppe Cinà, che ci porta nella sua Sparaoli in un altro mondo, in un mondo dove c'è la lingua del dialetto siciliano. Giuseppe? Non c'è più? Giuseppe non c'è più. Va bene, Giuseppe se n'è andato a Sparaoli. Allora chiedo a Francesco Macciò di avvicinarsi per questa sua performance che io ho trovato stupenda. Grazie. Una volta. Dunque, c'era un filmato che però non siamo riusciti a fare partire, che era quello che, insomma, io speravo di vedere quello e far altro, perché poi non ho preparato molte cose attinenti al libro. Quel filmato invece era la restituzione di una poesia apparsa sul libro che si intitolava A Sarklet, che è una località della Scozia, la terra precipita in mare. Vabbè, io uso questo tamburo che mi aiuta un po' con la memoria, ma adesso poi c'è stato l'intermezzo, vediamo, speriamo bene. Una cosa però posso ricordare di una serata fatta con Gabriella che non riguardava la poesia, e lo metto come piccola epigrafe alla mia lettura, alla mia improvvisazione. E sono dei versi di Dante che io avevo commentato, che discendevano anche da un testo greco di Matteo, del Vangelo. «Ton arton emonton epiusion dos emin semeron». «Da oggi a noi la quotidiana manna, senza la quale va a retro chi troppo di gir si affanna. Sfasciati i fondali, parole premorte come reti stese sulle labbra, sempre a pieghe la memoria, in un travaso di voci parete, tutta a spacchi e crepe. Signora delle bolle di sapone, che non nascondi ciò che possiamo vedere, ma lo rifletti nell'apparenza, nella sproporzione. Signora delle barricate d'acqua, degli afflitti, dei disarmati, signora delle coccinelle, dei mezzo sangue, degli addormentati sui catafalchi viola delle camere mortuarie. Signora della persistenza e della mutazione, dove finiscono le stelle, la scia bianca della memoria, al fondo di ogni gesto, di ogni storia, al principio immemorabile di ogni parola. Eppure, su tutti questi oggetti rimane qualcosa di chi li ha custoditi, qualcosa su queste mura disarmate di chi le ha difese. La voce della terra che si gonfia, la voce del vento, la voce del fuoco, la voce della terra che si spacca, la voce dei morti, la voce del mare, la voce della terra che rimane, la voce dell'inverno, la voce della pioggia, la voce della voce oltre la voce della neve, la voce delle rose. Questa sostanza cieca che rimane nella carne, nel principio della nostra voce, come nella brace per un istante la forma di ciò che è bruciato. La solitudine è sostanza femminile che non invecchia, genera cigni bianchissimi dalle carni nere e farfalle che si innalzano in un disco d'oro, rimane appesa alle parole più semplici e leggere, seme oscuro che scioglie nel cuore quello che non sappiamo dire. Questo sole freddo di ottobre che ci intride e viene fuori dal grigio a medicarci. Il corpo è rosa pastello quando viene al mondo, ocra prima di partire. Dio se c'è è albino, fosse femmina sarebbe trasparente. L'anima è bianca o rosso cinerina. La mente è come la colori o del colore degli ulivi. In questo tempo di ribellione e di rovina è terra d'ombra la parola, al cuore acqua marina. Grazie a Francesco per questa sua performance. Sarklet, comunque, potrete vederlo su YouTube, vale la pena. E passiamo a Franco Romanò. Anche Franco è un autore che frequenta sia la poesia che la narrativa che la critica letteraria. Io credo che sia un autore veramente trasversale a tutto campo. Allora, leggerò un testo dell'antologia, se riesco a trovare la luce giusta. Ok, ci siamo. È un testo dedicato a una città che amo molto, che in questo momento mi manca molto, che è Berlino. Berlino. Il lume dall'altro rischiara un volto recluso sul libro. Scusate, ma faccio veramente fatica. Riparto. Il lume dall'altro rischiara un volto reclino sul libro. Due mani sorreggono il buio attorno. Berlino anni 30. fuori si sente musica rock, davanti alla casa un fast food accoglie stanchi avventori prima che la movida notturna l'inghiotta. Il tempo dunque è ora, è qui, ma quella donna che legge, le mani che abbracciano il libro e accarezzano le pagine dove è incisa la storia d'Europa che amiamo, lei scosta la tenda, il vetro riflette un volto elegante, severo, un istante di eterno prima dell'uragano imminente. E poi sempre da Berlino un luogo un po' particolare, è una piazza, Kottbusser Tor. La piazza non è una vera piazza, è sempre disorienta. Nel traffico di bancarelle l'orientamento è in bilico fra due direzioni. In fondo, in lontananza, sembra di scorgere un ponte e il richiamo del fiume ti cattura. Ma di là c'è Istanbul. E allora la porta girevole fra due mondi ti trattiene. Incerto sul che fare, alla fine ci si ferma un po' a sognare. Allora, chiamo Antonella Doria e la sua vena assolutamente ludica e inventiva, la capacità di creare una lingua assolutamente nuova, facendosi comunque cantore di strada anche rispetto a una città come Milano, come Palermo. Scusate, ma leggo dall'antologia che di saggi che ha fatto la Gabriella e leggo l'ultima poesia che ha scelto, che è l'inizio di Millant'anni come poemetto, perché poi tutta la trilogia Mediterraneo, Metropolis, si chiama anche Millant'anni. Tumultuoso un gran fiume, verso l'inverno viene, a piedi ciechi, folli, mercenari, di peste d'oblio appestati, viene la notte inquieta nelle palpebre, una sola moltitudine, insegne, menzogne portano, seguono, inseguono in marcia, in avvicinamento, verso dove forse tutto era niente, a piedi ciechi folli, molti, in marcia incatenati, ronzini, ronzinanti tutti, danzanti tristemente, tumultuoso un gran fiume, devastante inondazione, incontro al raggio verde viene, all'orizzonte estremo incontro, dove capovolta la terra sorgere vedrai. Questo è l'incipit di Millant'anni. Però qui non riesco a, scusate, ma non riesco a ritrovarmi. Continuando l'inizio del poemetto, a margine del verbo, a margine del senso, corpi premono in schiavitù, sgomento, fugace seme questo, immagini finge, fulmini e lampo nel tempo della mente, a liberare volge la notte, l'idea balena in bagliori di follia, sta a sogno o meraviglia, oltre ogni possibile segno, oltre paura o terrore, un cuore selvaggio cerca in labirinti visceri, percorso agli inferi cerca, un cuore selvaggio contro l'inesprimibile, contro l'oblio o il silenzio, cerca d'acropoli pietre comporre. Pietre comporre, comporre parole, echi di una partitura, musica, città turrita, nuova, nuova Atene, Troia o Cartago, sale al monte, d'acropoli serve pietre comporre, si quieta in cuore l'inquietudine e sale l'insieme di fiaccole, di mani, macerie illumina, illumina ogni notte di Creto, fascismo o terremoto. Un cuore selvaggio cerca, ritorna, riprendi mani e lingua alla terra, alle viscere materne ritorna, matrici di memoria. Salto un po', vediamo cosa posso leggere. Leggo questa qui che è uscita anche su Testuale, che è la scelta per Testuale Gioferri. Narra poesia che siamo cielo e terra, prime realtà spirituali, che un sogno bambino abita ancora la possibilità, una parola viva, una parola vera, in mare di follia, incertezza. Vedrai, andrò scalza su aspri sassi, forte della mia pelle d'asino, della mia pelle d'angelo, d'orna tubero e radice, per luoghi incerti, per deserti, per lidi e liti metropolitani. Andrò dove cambiano modi e forme di dei e despoti, a dire, fare, che non frani sogno, cielo e terra, non muoia notte e aurora, colore nel mattino. Grazie. Chiamo Laura Cantelmo e sono contenta di avere questo senso amicale con lei. Per lei l'amicizia è molto importante, fa parte di quella forma di amore che tiene insieme anche gli ideali. Grazie, come tutti ti dobbiamo un grazie di cuore, Gabriella, perché in questo tempo difficile ci siamo tenuti vicini, diciamo. Allora, devo trovare... Ecco. Comincio con leggere una un po' lunga, poi vediamo, perché non so se vale la pena continuare molto. Vabbè. Questa è intitolata Ritorno all'Eden. Cercare il paradiso sulla terra, tra le radici della forra più fonda, tra poli di ghiaccio, dossi liquefatti, su onde di cristallo, dove vanno a morire gli orsi, negli anfratti della calotta del mondo che ha fame, sui loro dorsi. Il vento caldo smuove i vapori, appanna il binocolo che invade il nido corsaro delle diomedee in amore, dove si accumulano i liquami della terra del tramonto, occidente. Eppure, tra le sorgenti strozzate da dighe imponenti, nella mezzaluna d'Assiria, tra fosse di felci e totem, ecco nel silenzio all'orizzonte la gloria di Gobekli Tepe, enigma d'Anatolia, mura muta epifania dell'Eden. Si affida disperata ai suoi declivi la nuova storia, al mistero terragno delle nere terrazze riarse da sarchiare, all'ondeggiare in memore di olivastri e olivi nel crepuscolo del mattino. Nell'aria azzurra tra le braci vaga insondabile per noi novelli primitivi, orfani di pace, l'anima dell'Eden da salvare, per noi che ormai abbiamo perso la luce. Ce ne sarebbero altre, ma Leguna, grazie. No, lascia. Grazie, faccio grazie esercizio. Grazie. Questa è intitolata A che punto è la notte, che è parte di un verso del Macbeth. Nella notte più nera di Macbeth, Macbeth chiede: ragazzo, dimmi a che punto è la notte. È quello che ci chiediamo noi, noi in questo periodo, credo tutti noi. Nel fermo immagine della città che tace, passeggi sotto il dito medio alzato sulla piazza degli affari, tra sale gioco e bische virtuali, guardando la compravendita dell'aria, del cielo e le altre stelle. Allora. Hanno fatto la pelle a uno schiavo nelle sterpaglie, nero, brachicefalo, camuso. Tra le ferraglie cercava un tetto. Eppure la razza bianca conta sul messia di pelle scura e tra rispetto e paura sbraca, sbianca all'urlo dei mercanti nel tempio. Al canto senza scampo delle sirene in questo freddo inferno di paura chiamato antropocene, il potere di Medusa impietra moltitudini senza scintilla. Tu che aspetti libertà da Perseo, graffiando il muro con le dita rotte, dimmi se un re senza regno ucciderà il re sovrano. Dimmi, ragazzo, a che punto è la notte? Adesso volevo andare un po' sul leggero, poi finisco. Questo è un ricordo di quando io andavo a scuola e intorno alla scuola c'erano i prati. Dai prati in primavera volavano nell'aula dove facevamo lezioni le libellule. Le libellule sono scomparse, io non ho mai più visto una libellula da allora. Libellule trasparenti nell'aula. Era maggio, tiepido di acerbe gioie e ignote emozioni, aleggiavano attraverso di Dante formule algebriche, leggere libellule sulle turpitudini terrene, forse anime dei morti amati, compagne di scuola, fragili, discrete, per sempre cancellate da veleni malsani, seppur ancora palpitanti, farfalle nella mente affollata di noi, eterne fanciulle, nude mandorle di aria e di luce, disperate libellule ancora e sempre amate nelle tragedie del secolo atroce. Che significa che non facevo il liceo dopo il 2000, nel secolo atroce che è il secolo scorso. Se posso leggere ancora un'altra, non so. Quest'altra è intitolata Mattina 2022. In realtà si riferisce a un fatto che è avvenuto qualche anno fa, però mi è tornata alla mente quest'anno. Mattina d'inverno a Milano, sole sfuggente sul Naviglio, la scighiera sulla Darsena sfavilla, la scighiera e la nebbia per chi non è di Milano. Titilla alle orecchie la voce di un rabdomante in cerca di veleni. Qui I cavalli normanni frustati a sangue portavano la sabbia e qui approdavano i marmi della veneranda fabbrica dell'uomo. Perforando le brume, l'uomo Leonardo studiava le acque, le ardite chiuse. Dalla quercia dorata all'improvviso ciondolano tenere forme di bambini. Grida scomposte, occhi levati al cielo, si spengono le scintille di Milano, grattacieli alberati, corpi plasmati, radiocentrici viali, bastioni sorridenti. Nel cupo gelo ghigna la peste allo sberleffo di un artista. Abusi sui bambini, rombi di guerra, pugnali assassini, euro che svolazzano, lezzo e indifferenza. Milano da bere brinda ai suoi peccati, alla propria ricchezza, alla gloria caduca di Napoleone, nella piazza di Porta Marengo, per noi amata Porta Cicca. Allora, Porta Marengo è la porta ticinese, che è popolarmente chiamata Porta Cicca. La porta di Piazza 24 Maggio, dove c'è anche la grande quercia che ci ha benedetti tutti, lì avevano eretto questo arco per celebrare la vittoria di Napoleone a Marengo nel 1800. In realtà l'ironia della storia volle che l'arco fosse terminato di edificare quando ormai Napoleone era già decaduto, era già in esilio, nel 1815. Infatti c'è la data 1815, parla di pace, ma sappiamo che purtroppo non fu proprio un periodo di pace quello. E comunque proprio è l'ironia della sorte, la caducità delle cose umane, del destino umano, eccetera. Questi pupazzi, queste immagini di bambini che penzolano dalla grande quercia, erano stati appesi con il consenso del Comune di Milano in modo provocatorio da Catelan, questo artista che è stato molto a Milano, e naturalmente per far pensare alla vita difficile di molti bambini nel mondo che vivono nelle guerre, che vivono nella fame, nella miseria, così. Però la reazione della popolazione alla vista, io stessa rimasi molto impressionata, perché sembravano dei bambini impiccati alla quercia, quindi era una provocazione, se vogliamo, riuscita da parte di Catelan. Però fu insultato, ne successe, non so se te la ricordi questa cosa, che tu abiti proprio lì. Basta, ho chiuso. Vi ringrazio molto, ringrazio sempre Gabriele, ringrazio tutti. E questa chiosa di Laura Cantelmo con la storia, in realtà Laura Cantelmo ha visitato anche il mito con la figura di Medea in poesia. Però abbiamo avuto tra i nostri incontri e anche nell'antologia un'altra autrice di Bari, lei però non è potuta essere presente, però ci ha mandato un video. E questo video è Io sono Medea, lei lo coniuga con la narrativa. Io sono Medea, figlia della Colchide, ma senza patria, nata su una qualsiasi sponda della madre che allaccia Europa, Asia e Africa nel triplo nodo del Bosforo, dell'Ellesponto e delle colonne d'Ercole. occhi cerulei e capelli neri e crespi, ho la pelle olivastra che si fa bruna al sole, testimonia l'ambiguità delle mie millenarie mescolanze. Affioro dalle rovine di Chataluyuk e Urso, non a Taileusi, a Cnosso, a Ciaiono e ad Arappa, a Gerico, nell'isola di Malta, a Cucuteni e lungo un qualsiasi ramo della Rift Valley, dove la prima donna sollevò la nostra evoluzione su due piedi per tenere in braccio un figlio e raccogliere germogli con l'altra mano. Ho bevuto sia alla foce sia alla fonte del Danubio, famiglia fra le sabbie di Giza e nell'oasi di Nag Hammadi, dono del Nilo. Ho imparato a dipingere sulle rocce di Lascaux e ho impresso la forma delle mie mani preistoriche sulle grotte del Peshmerg, nelle mie migrazioni fino ai Pirenei. Sono atea, pagana, mitraista, ebrea, islamica, cristiana, barbara sempre. Io sono Medea, emanazione di Ecate, dea dei morti e degli innati, do le spalle alle vostre divinità celesti, rovescio le albe in tramonti e viceversa. Nelle progressioni geometriche e aritmetiche porto il mio passo di danza, schiudo faglie improvvise nella lenta deriva tettonica, affondo Atlantidi e sollevo isole nuove, in epifanie che vedo io sola, con pupille di uccello strigiforme. Sto a tutela dei crocicchi, dove cani smagriti invocano in laterati nuove intersezioni tra le vie. Apro porte abusive nelle pareti dei paesi, ospito nuovi viandanti, l'orfano e la vedova. Traccio cardi e decumani ad angolazioni variabili, piego i determinismi meandri, spezzo linee parallele in combinazioni imprevedibili, accorcio le ere geologiche, filo e spezzo epoche, svolgo, riannodo e recido involuzioni e rivoluzioni, apogei e decadenza. Sono il feedback senza decodifica, sono l'esplosione nella orta, l'irruzione artica nelle primavere temperate. Intercetto ipotesi evolutive inaspettate nei punti di biforcazione, interrompo la rotta rassicurante del vostro progresso, sfascio imperi come esorcismo alle catastrofi. Sono la teorica del caos, invoco fratture nei lunghi equilibri delle vostre stupidenti tirannie. Mie. Sono colei che disorienta, creo senza matrici, nell'autopoiesi feconda della mia mente. Io sono Medea, è un romanzo pubblicato da Nulla Die nel 2021 e antologizzato nell'antologia Nell'oro della quercia, punto a capo edizioni. Ringrazio Gabriella Galzio per la cura con cui ha lavorato a questa antologia, ringrazio le autrici e gli autori ospiti dell'antologia con cui il mio testo è in perenne dialogo, soprattutto quei testi aperti alla mitopoiesi, all'utopia, ad una nuova humanitas. È una Medea la mia, molto lontana da quella di Euripide, da quella di Seneca, una Medea non infanticida che non ha ucciso né suo fratello Absirto né i suoi figli, ma si è rifiutata di generare, perché questo è stato il suo atto di protesta contro il patriarcato, contro le guerre, contro lo stupro della natura, contro il saccheggio dei popoli inferiorizzati. Questa è la mia Medea, una Medea che attinge ai valori di condivisione, di cooperazione, di redistribuzione, di consenso impliciti nelle culture matriarcali. Questa è una Medea con facoltà cosmogoniche, partenogenetiche, ipostasi della grande idea. Per chi vorrà conoscerla e comprenderla meglio, Nell'oro della quercia, punto a capo edizioni. Grazie e spero di incontrarvi presto. Buona serata. Una forza della natura. Allora, stiamo veramente in conclusione. Io non so chi è rimasto, siamo tra intimi evidentemente, ma io chi ho tenuto in fondo? I capitani di lungo corso. Quindi Roberto Caracci, perché da lungo, lunghissimo tempo tiene un salotto magnifico, molto più grande e importante del mio. perché Angelo Gaccione, anche lui fedele alla sua Odissea da anni, anch'io fedele all'Odissea devo dire, sia pure in maniera erratica, e quindi ho pensato che sono persone che si occupano della socialità, questa cosa importante che trascende il singolo, però loro sono anche degli autori, sono degli autori che si occupano però anche degli altri. Allora, Roberto Caraci, vieni qua. Non c'è, è sparito. Non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, ma Gaccione sì. Nemmeno lui. Questi capitani di lungo corso hanno perso la loro l'ultima possibilità. Mi spiace. Allora, io devo dire, farò una poesia, una, è un inedito. Vediamo se riesco a mettere gli occhiali, perché... Occhio ai capitani di lungo corso. Non ci dovrebbero abbandonare all'ultimo. Rimane la mia convinzione. Si può leggere, si può parlare a una persona, a due, a dieci, a venti, non cambia. Io ho avuto modo di avere delle esperienze con tutti i tipi di pubblico, e quello più difficile per me è stato quando mi sono trovata a Tellaro, nella piazzetta di Tellaro, a cercare di parlare con la gente che ci passava davanti come se noi fossimo stati invisibili. La cosa più difficile di tutte, esistere quando tu per gli altri sei invisibile. Allora, vediamo un po'. Allora, questo è un inedito, e sono dei doppi metri e ritmi dattilici, nel senso che sono dei classici versi epici, però qui l'epica è un'epica di cura, non ha a che fare con l'epica di conquista. E io lo dedico ad Antigone, perché Antigone preservava un antico ordine, quello di leggi non scritte ma salde, che nessuno sa quando vennero rivelate. A poco potrà il tuo Dio materno, il Verbo rivelato, per riportarci al noi, se non risalirai alle madri, alle radici remote, allo iato rimosso dall'ubris di nomadi, a cavallo, al galoppo, strappato alle radici. Il Dio trascendente, coazione a ripetere, è già nato esploso in mille frammenti, di là risucchiato nel gorgo insaziato dell'oltre, l'altrove, del transumanato. Ma qui è la sorgente ove sgorga ogni cosa, qui muore paziente e risorge entro il limite. Non sferra l'attacco a leggi di natura, non altera equilibri saldi nelle ere. Temis l'irremovibile. Temis era la dea titolare dell'oracolo di Delfi prima che venisse spodestato dal nuovo dio patriarcale Apollo. Temis l'irremovibile, così in cielo, così in terra, non conosce la guerra, non la contempla la lingua, ripara nella cura, previene ogni contesa. Risorgono corali le madri, argine al branco, riassorbono il male, sotterrano le armi, rientrano negli argini dei ritmi dell'aurora, accompagnano i morti a fetale sepoltura. Noi non saremo sorelle senza fratelli, noi non saremo figlie senza madri. L'ultimo video, se riuscite a resistere, è quello di Sebastiano Romano, che non c'è, ma ci sarà il video, spero. È un video che lui ha fatto su uno spettacolo di luci che ha creato ad Arona e che noi abbiamo riportato anche in antologia, sia pure sotto forma di singole immagini. E quindi ci salutiamo così su questo video. Thank you. hinlängst. Er geht zu den Füchsen und predigt den Fischen. Die Schlangen mit den Schwänzen im Sonnenschein glänzen. Im Sonnenschein glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Rogen sind alle erzogen, aber Mäule auf Wiesen sich zu Wiesen. Kein Predigt nie mag, den Fischen.